Ma oggi c'è la Champions? Beh, non come lo so. È mercoledì? Sì. Ma Drago, ma non sai le cose del calcio? Ogni tanto... Io mi sto appassionando. Ogni tanto fanno anche un po' di intervallo. Mi piace, cioè, sto seguendo molto il Milan in Champions. Ma sei stato eliminato dal Barcellona, capo, che l'hai proprio seguito bene. Mamma ma mia. Ma come è stato eliminato? È stato eliminato, sì. Credo asilo. Bentornati a Forza Milan, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Forza Milan no, mai, bentornati a Chiedo Asilo. Qui però è un po' difficile star dietro la situazione perché? Qui dall'asilo, perché la situazione è fluida, la politica è allo sbando. Insomma, ogni momento è quello buono per ulteriori clamorosi sviluppi. Ma Drago, ma in questi giorni però è tornata in auge e ha avuto finalmente un nome memorizzabile e ormai immemorabile, la senatrice che aveva fatto quella scenata immortalata anche in un celebre stacchetto di Chiedo Asilo. Ricordi? Sì, perché si tratta niente meno che di Rosy Mauro, la badante di Bossi, la vestale del cerchio magico. Ecco, a proposito di cerchio magico, Drago, ho sentito come l'ho detto bene. Hai detto bene. A proposito di cerchio magico, vogliamo parlarne? Lo so, il cerchio magico pare una bambinata. No, ho capito, no? Ma voglio dire, il cerchio magico, ma cos'è? Ma hanno visto troppi Harry Potters? Beh sì, in effetti, a leggere le cronache, Potters, anche le più serie, non si può fare a meno di ridere. Si parla del trota, si parla di cerchio magico e dovremmo pure restare seri. Vabbè, ma quel che dicevano nel 68 si sta finalmente avverando. Una risata ci seppellirà. Una bella risatona. Peccato, sì, che non si tratti di una risata come quella che pensavano quelli del 68, cioè la risata di una società innocente e onesta, ma si tratta di una risata registrata, di quelle in scatola. Laugh box. Dove quelli che ridono sono già tutti, presumibilmente. È morto. Del famoso film titanico Titanic, che però è affondato nella versione in 3D, ha deluso le aspettative, tanto che ormai il 3D è oggetto di discussione. Serve o non serve? Ma che serve? Meglio continuare o meglio lasciar perdere? Ma noi lo diciamo da sempre, il 3D è una bambinata, per cui va bene giusto per i film d'animazione, per i cartoni animati e quelli neanche troppo seri. E intanto guarda che Campovolo di Ligabue è andato benissimo in 3D. Ma come? Ligabue in 3D? Sì, cos'è quella faccia che fai? No, Ligabue, la faccia di Ligabue, tutta butterata in 3D, vedi bene in HD e 3D, vedi tutti i buchi infatti. Che c'ha in faccia. Infatti serve quello, le rughe verticali sulla... Il 3D per Ligabue serve proprio a mettere in evidenza le rughe verticali sulle guance di Ligabue. Ecco, alla fine un motivo per fare il 3D lo trovano sempre. It's me, Mario! Giocare. Su. Giù. Crescere. Forza. Tassa. Pagare. Tassa. Pagare. Di più. Forza. Su. Contrario. Sotto. Giù. Avanti. Pagare. Di più. Tassa. Pagare. senza tasse, pagare. Crisi di sistema. Per la gioia dei bambini, in Cina hanno scoperto degli esemplari di dinosauro piumato molto antichi, capito? Dei 3 o 4, mi sembra. Guarda che tra l'altro non si può dire, a parte la notizia piuma, cosa, sì, poi non si può dire dinosauro, perché così sennò dai fastidio ai creazionisti. Lo so, però per fortuna questo succede dinosauro. Solo in America. Qui in Cina si può ancora dire dinosauro, anzi qui possiamo pure abusare della parola dinosauro. Ma ti immagini in realtà che bello sarebbe fare il ricercatore di dinosauri? In che senso, cioè fare il ricercatore? Ma sì, tutto il giorno che dici allora, se questo animale pesava 1 tonnellata, come mai aveva le piume? Difficile che animali di grossa stazza abbiano le piume. Quindi questo animale deve essere vissuto durante un periodo molto freddo, antecedente a quello del Tyrannosaurus Rex. Poi arriva un collega e dice: e se invece anche il Tyrannosaurus Rex avesse avuto le piume? Magari a un certo punto cadevano, che ne sappiamo? Soprattutto, cosa ne sai tu che ti sei laureato lì in provincia di Parma? Diciamo che non è gente che sta aiutando il mondo a cavarsela da una grave crisi internazionale, però a loro modo anche loro fanno progredire l'umanità con le loro scoperte. Sì, vero, quali scoperte? Sono fossili di milioni di anni fa, è tutta una congettura. No. Un buon romanziere è più utile di un archeologo, Drago, per raccontare la preistoria. Si mette lì, inventa. Sì. Allora il miglior romanziere sarebbe vedere quello che ha scritto la Bibbia, viaggio psichedelico alle origini dell'universo, insuperato e insuperabile. Però vedi che siamo di nuovo al duello tra creazionisti e evoluzionisti. Sarà che una delle questioni cruciali del tempo, con la gente che non arriva alla fine del mese, sai quanto è cruciale sapere se l'universo l'ha creato Dio, il Big Bang oppure Stephen Hawking? Intanto noi siamo qui con Stephen Hawking, lui ha creato l'universo. Noi stiamo qui a parlarne intanto in un asilo alle 5 del pomeriggio, invece di essere in miniera a lavorare, capito? Sì, ma perché proprio in miniera? Perché forse è quello che ci meritiamo. Scappate pure, correte, se vi pare. Il coccodrillo, sta arrivando il nostro coccodrillo. No, il tuo, nemmeno il mio. Dai, insomma, dai. Il coccodrillo per la morte di Miriam Mafai, però, era identico su Corriere.it e su Sole24ore.it. L'hanno rivelato quei simpatici secchioni del giornale online, l'inchiesta.it. Ma per forza, Drago, è morta il giorno di Pasquetta. Poverina, i giornalisti veri erano tutti a fare il picnic al punto it. Al Corriere, al Sole, c'era solo l'ultimo degli stegisti e anche la Repubblica. Avevano fatto copia e incolla. Tipo che al Sole c'era la Faggina. Ho capito, però scusa, copia e incolla così brutale, fa un po' tristezza. Dai, poi per una donna come la Mafai, forse meritava di più. Sì, ma si sono rifatti poi nella versione cartacea il giorno dopo, capito? Faggina a casa, arriva quello vero. Allora, per forza che poi le versioni online dei quotidiani non sfondano mai del tutto. Perché ma poi sono i coccodrilli, fatti scusa Drago, non dovrebbero prepararli già prima, tenerli al fresco per quando servono nel infatti, cassettino lì? Un coccodrillo nel cassetto, voglio vedere. Comunque, oltretutto, la Mafai aveva quasi 90 anni, quindi un coccodrillo ben fatto sicuramente se lo sarebbe meritato da un po'. Ma alla fine c'è solo una morale a questa storia, cioè che anche i coccodrilli non sono più quelli di una volta, nemmeno quelli della Lacoste. Coccodrillo del mercoledì che sta finendo, quindi in qualche modo sta morendo. Come il lupo del martedì, c'è il coccodrillo del mercoledì. Esattamente. Arriveremo poi alla fine ad avere un animale per ogni giorno della settimana. Bravo. Una specie di zoo della settimana. Questa è la cosa più infantile che c'è, no? Così tutti associeranno a un giorno della settimana un animale della foresta. Il mercoledì è rappresentato dal coccodrillo. Fa il coccodrillo. Chiedosino @radio24.it